24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 20 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 17 giugno. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti voi. Adesso andremo da te, Maria, per la tua consueta introduzione della mattina, però, voglio iniziare presentandovi la puntata di oggi, perché prima torneremo a raccontare un po' i numeri dell'epidemia, della pandemia da Covid-19, lo faremo con Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, che torna da noi, e poi affronteremo un tema sollevato dal professor Pietro Ichino nei giorni scorsi e sul quale siete chiamati a dire la vostra, altre 349-238-6666 per gli WhatsApp audio, le vostre voci, o all'800-24-0024 con piacere. È stato molto duro Ichino, perché ha detto: lo smart working per la pubblica amministrazione, per gran parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, è stata una lunga vacanza pagata al 100%. Dunque, aprendo un dibattito e un tema, sentiremo la sua opinione e anche un'opinione diversa. E anche la vostra, e anche quella dei nostri ascoltatori. Vai, Maria. E ai nostri ascoltatori mi piacerebbe chiedere se condividono quello che Alessandra Ghisleri, la sondaggista che questa mattina sulla Stampa propone: un accurato sondaggio confrontando i dati del giugno del 2019 a quelli del 19 del 2020 sul gradimento dei leader, che, ricorda giustamente Ghisleri, non si traduce direttamente in voti, ma dà comunque un segno di come ciascuno dei sondati abbia voglia di trovare un punto fermo. Che cosa emerge da questo sondaggio? Emerge che i due leader che sono andati meglio in assoluto sono il premier Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Per tutti gli altri c'è un sensibile calo. Vediamo per esempio che Salvini è calato notevolmente dal giugno del 2020 a oggi, e così pure tutti, Luigi Di Maio, così pure Matteo Renzi, che è l'ultimo della classifica nel gradimento. E tutto ciò che cosa significa? Significa, secondo Alessandra Ghisleri, che in un anno, per esempio, Conte, che ha guadagnato il 5,5%, è riuscito, probabilmente anche grazie alla visibilità della gestione dell'emergenza, a conquistarsi una primazia sulla scena, e cosa che non era assolutamente consentita nel governo precedente, quello in cui la Lega governava con i 5 Stelle, perché Conte era appunto un po' oscurato da tutti e due. Quindi l'altro dato che emerge, sì, è la galoppata di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è passata, come dire, in testa tra i cavalli del centrodestra. Vedremo se questo sondaggio avrà conferme. Evoluzioni politiche interessanti. Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, fondazione dell'associazione Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze, che l'ultima volta è stato da noi ha alzato un caos con la regione Lombardia pazzesco. Cartabellotta, eccoci, buongiorno. Ed è proprio dalla Lombardia, Cartabellotta, che torniamo, perché leggevo appunto i dati che riguardano ancora una volta questa regione, e anche gli ultimi dati parlano di 143 nuovi casi in Lombardia. Il 62% dei nuovi positivi è in questa regione. Ci aiuta a capire come mai, si dice, perché il virus si è diffuso per primo in Lombardia, perché ci sono più abitanti in Lombardia che in altre regioni? Tutte spiegazioni, ma non definitive. Qual è la sua? Ma guardi, io credo che una spiegazione definitiva e unica non possa esserci, perché qualunque evento, in sanità in particolare, è frutto di una variabile combinazione di fattori. È inevitabile che l'elevata densità di popolazione, il fatto che il virus ha circolato e circola per tanto tempo in quella regione, le modalità con cui non è stata è attivata o comunque è stato attivato soltanto in ritardo quella che è un'attività di tracciamento. Ecco, in questo momento io sono più contento, mi si consente il termine, che in Lombardia si trovano più casi asintomatici, perché significa che si sta diffondendo un'attività di tracing adeguata, cosa che magari prima non è stata fatta in maniera opportuna. Quindi da questo punto di vista, ecco, sono diversi fattori che possono portare a questa situazione, anche perché, come ho ripetuto più volte, se il dato degli pazienti ospedalizzati, sia in ospedale sia in terapia intensiva, è un dato legato ai flussi standard ospedalieri trasmessi dalla regione al Ministero della Salute, e quello dei decessi ormai si è stabilizzato, non ci sono più quelle differenze tra dati Istat e dati della mortalità Covid, evidentemente quello dei nuovi casi è tampone correlato, quindi quanto più vengono poi diffuse le strategie di testing, anche previa esecuzione dei test sierologici, quanti più casi si trovano. Quindi sì, in questo momento direi è un bene se la Lombardia sta trovando più casi, perché dimostra che sta attivando delle strategie di testing adeguate. Cartabellotta, le altre regioni stanno facendo altrettanto, o ci sono delle regioni che lei sospetta, in realtà, nelle quali lei sospetta che ve ne siano molti di più di casi e che in realtà non testano e non tracciano? Ma guardi, in questo momento è molto difficile fare delle analisi regionali, perché i numeri sono veramente molto molto bassi. Noi quello che abbiamo documentato la scorsa settimana in maniera oggettiva e difficilmente confutabile, che alla vigilia, diciamo, delle due grandi riaperture, quella del 6 maggio, quella del 4 maggio e quella del 3 giugno, si è assistito, diciamo, un po' in tutta Italia, un po' in tutte le regioni, a un calo, diciamo, dei tamponi diagnostici, cioè durante quel periodo c'era un po' così la necessità di mantenere bassi il numero dei casi. Nella settimana 30 aprile e 6 maggio c'è stato un meno 21% dei tamponi diagnostici, nella settimana prima del 3 giugno, quindi dal 28 al 3, un calo del 18%. Adesso c'è una lieve risalita, però ecco, le ripeto, i casi Lombardia a parte adesso sono veramente molto molto pochi, quindi molte regioni hanno adottato uno step preliminare di utilizzo di test sierologici, però questo non con un protocollo nazionale univoco, perché sappiamo bene che anche l'indagine nazionale, quella sui 150.000 casi selezionati dall'Istat, non sta avendo uno straordinario successo, hanno aderito poco meno di 30.000 persone, molti dei quali hanno detto Senta. Sì, Maria, prego. Mi perdoni, Cartabellotta, un esempio di come è stata gestita, mi sembra efficacemente, l'epidemia è quello della Regione Lazio, perché sì, loro hanno avuto un caso tra i primi, quello famoso della coppia cinese che fu chiusa a doppia mandata allo Spallanzani, e da lì hanno fatto un controllo piuttosto efficace. Nella clinica privata degli Angelucci, San Raffaele, però è scoppiato un focolaio, e anche lì mi pare che ci sia stata appunto un'operazione di isolamento. Tempestiva di isolamento. È così che bisognerà, diciamo, fare anche nei prossimi mesi, cioè scoppia un focolaio, si scopre che in un certo palazzo ci sono dei contagiati e lo si isola. Come ci comporteremo? Perché temo che purtroppo i focolai continueranno a scoppiare qua e là. Guardi, quello che succederà nei prossimi mesi è molto difficile immaginare, diciamo, una ripresa dell'epidemia con la violenza e l'entità con cui l'abbiamo conosciuta negli scorsi mesi, a patto che, ecco, questo lo ribadisco sempre, che da un lato i comportamenti individuali, diciamo, mantengono determinate regole, dall'altro che ci sia un'adeguata sorveglianza da parte regioni, che significa sostanzialmente due cose: continuare a fare tamponi e test sierologici come eventuale test di screening con tutti i limiti che conosciamo già, e poi, come diceva lei, precoce e tempestiva identificazione dei focolai e il loro isolamento in relazione a quello che è l'ambito geografico, diciamo, in cui si collocano, perché nel caso specifico della Garbatella, voglio dire, tutto era circoscritto a un unico stabile, ma oppure un ospedale come nel caso della San Raffaele Pisana, ci possono essere altre situazioni che portano alla chiusura, per esempio, di un dell'intero comune, piccolo o grande che sia. Quindi in questo momento ci sono queste due variabili, una legata alle responsabilità individuali e una alle capacità sanitarie di tracciatura e di isolamento dei focolai sospetti, che ci permetteranno di governare, diciamo, o eventuale risalita della curva in questa fase successiva. Poi ce n'è una terza che noi non possiamo prevedere, che sono i cosiddetti fattori virus correlati, quindi mutazioni che al momento non ha documentato nessuno, minore aggressività che al momento non è documentata da nessuno, il fattore del caldo, c'è tutta una serie di variabili virus correlate di cui però non ci possiamo fidare, cioè non possono essere solo quelle a cui noi ci affidiamo per prevenire una risalita dei contagi. Quindi da un lato responsabilità individuale, quindi mantenere la distanza di sicurezza dove non è possibile usare la mascherina, evitare gli assembramenti, ma dall'altro che ci sia un'adeguata strategia in tutte le regioni, sia di tracciatura dei contatti, così come si sta facendo, e dall'altra, come giustamente ha detto lei, anche di isolamento dei focolai, spegnendoli sul nascere. Noi adesso abbiamo, diciamo, dei piccoli chicchi di fuoco sotto la cenere, nel momento in cui si vede la fiammella bisogna metterci il piede sopra. Certo. Cartabellotta, per riassumere, da come la sentiamo oggi rispetto a come l'abbiamo sentita l'altra volta, ci sembra di poter dire situazione relativamente tranquilla. Allora, io direi situazione relativamente sotto controllo, come peraltro ha anche confermato l'Istituto Superiore di Sanità, per quello che riguarda la diffusione complessiva del contagio su tutto il territorio nazionale. Alcune regioni, tra cui ovviamente in primis la Lombardia, con una densità di contagio ancora importante e quindi necessità di differenziare quelle che sono le strategie di intervento, inclusa anche una intensa attività di tracciatura. Terza cosa, non abbassare la guardia, perché se ragionevolmente certo che noi non vedremo più, anche perché siamo preparati, voglio dire, un'ondata di quella violenza, è anche ragionevolmente certo che ci sarà ora, con l'aumento dei contatti sociali, una risalita della curva di contagi. Quindi attenzione a quelli che sono, diciamo, dei focolai, a spegnerli sul nascere. Sì. È evidente che la guardia dobbiamo mantenerla alta, perché come dalle notizie che riceviamo anche dai paesi fuori dall'Italia, cito Pechino una per ultima, dico situazione di paesi che avevano dominato in maniera definitiva e non arrivati al contagio zero, poi all'improvviso, voglio dire, c'è un rialzo, anche perché non dimentichiamo che noi abbiamo aperto le frontiere, quindi anche altre strategie che abbiamo messo in campo, quali l'app Immuni, che ricordo sempre a tutti è un'applicazione tampone dipendente, cioè se non viene riempita di un contenuto sanitario rimane una scatola tecnologica vuota. Però adesso noi avremo stranieri che arrivano, circolazione su tutto il territorio nazionale, quindi la guardia, soprattutto dai servizi epidemiologici regionali, va mantenuta molto alta. Della logica del liberi tutti, che è stato un po' il mantra delle ultime settimane, devo dire che non ha aiutato e non aiuta, diciamo, nella gestione. Sì. Consapevolezza che tutto va meglio, però anche rimanere, diciamo, con una guardia alta sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista dei comportamenti individuali. Guardia alta dunque, grazie Nino Cartabellotta, presidente. Grazie IGIM, sempre a voi, Maria. Fondazione, presidente IGIM, la fondazione dell'Associazione Gruppo Italiano per la Medicina basata sulle evidenze. Ci fermiamo una pausa e poi parliamo di dipendenti pubblici e smart working. Come si diceva, avete già iniziato a scriverci su queste parole di Ichino. Vacanza pagata al 100% è stato lo smart working per i dipendenti pubblici. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Ed eccoci qua con due ospiti con due posizioni diverse: Pietro Ichino, giuslavorista, più volte parlamentare, autore del libro L'intelligenza del lavoro, quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore. Buongiorno professor Ichino, eccoci. Buongiorno. E il professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. E ovviamente buongiorno professor Corso. Buongiorno. E ovviamente i nostri ascoltatori che già ci stanno scrivendo in massa, potete anche chiamarci all'800 24 00 24. Maria, inizia tu, vai. Naturalmente prego. Io ho una grande curiosità per le affermazioni dell'avvocato Ichino, che so essere molto condivise. Nel senso che c'è un pensiero comune che è spesso anche confermato da inchieste giudiziarie, che vede il dipendente pubblico scansa fatiche. Ora, lei, avvocato Ichino, ha detto appunto è stata una lunga vacanza lo smart working, però io So per certo che in alcuni ministeri, penso al Ministero della Sanità per esempio, si è lavorato moltissimo. Così mi consta in alcuni assessorati regionali, per esempio sempre l'assessorato alla sanità, hanno lavorato moltissimo. L'INPS, che ha erogato cassa integrazioni e bonus in poche settimane, in un numero che altrimenti sarebbe stato erogato in anni. Allora, le chiederei una cosa: quale settore della pubblica amministrazione, secondo lei, è stato in vacanza a stipendio pieno nei mesi del lockdown? Così cerchiamo di identificare con precisione quale settore è nel suo mirino, diciamo così. Professore? Professore Ichino? Allora, innanzitutto vorrei sgombrare il campo da due equivoci. Primo, non ho affatto affermato che tutti i dipendenti pubblici siano stati in vacanza, al contrario, chi vuole andarsi a vedere sul mio sito l'intervista, ho detto proprio, ho denunciato l'ingiustizia di un sistema in cui una parte dei lavoratori ha lavorato anche più di prima e in modo più intenso, a tratti eroico, come proprio il settore della sanità, i medici, i paramedici, ma anche gli insegnanti che hanno fatto la teledidattica con i mezzi propri senza un aiuto da parte dell'amministrazione, e invece tutta la parte dei dipendenti pubblici che non ha lavorato, ma non per colpa loro, anche semplicemente per colpa di un'organizzazione che non ha saputo metterli in grado di lavorare e che, a differenza del settore privato, non sono stati messi in cassa integrazione, quindi hanno preso lo stipendio pieno, mentre sarebbe stato possibilissimo istituire una sorta di cassa integrazione di emergenza per il settore pubblico, e con quel che si sarebbe risparmiato in quel modo si sarebbe potuto dare qualche personal computer in più agli insegnanti e magari qualche premio in più ai medici e agli infermieri. Quindi, primo equivoco, non ho detto affatto che nessuno abbia lavorato, anzi ho proprio denunciato l'ingiustizia di una perfetta parità di trattamento fra chi ha lavorato moltissimo e chi magari non per colpa sua ma non ha lavorato per niente. Secondo equivoco, magari a volte anche per colpa sua non ha lavorato, dico, ma magari non per colpa sua, a volte anche per colpa sua, però prego. Guardi, io non uso mai il termine fannulloni, ho usato sempre, su questo tema, in questo capitolo, il termine semmai nulla facenti, che non implica una colpa, e uno può anche essere nulla facente per colpa dell'organizzazione. Ma l'altro equivoco è quello di pensare che io abbia voluto attaccare lo smart working, il lavoro agile in sé, come strumento sbagliato che favorisce il parassitismo, la pigrizia. È esattamente il contrario di quel che penso e di quel che ho scritto a questo proposito. Lo smart working è smart in quanto sia ben organizzato, in quanto segni un cambiamento di paradigma, quindi un rapporto di lavoro non più caratterizzato dal coordinamento spazio-temporale, dal doversi svolgere la prestazione dentro il perimetro aziendale e in un certo, in una certa gabbia di orario, ma una prestazione misurata in base a obiettivi, quindi a un risultato, quindi un lavoro dipendente che per certi aspetti si avvicina alle caratteristiche del lavoro autonomo e che però lavoro autonomo non diventa, perché resta il carattere della dipendenza economica, e quindi richiede un ripensamento della struttura di protezione che richiede la dipendenza. Sì. Ora, tutto questo, su tutto questo nel settore privato ci si è mossi, ci si è arrabattati, si è cercato di combinare le norme di sicurezza necessarie con la ripresa del lavoro e soprattutto si è cominciato a ripensare il rapporto di lavoro proprio in funzione di queste nuove necessità. Nel settore pubblico non è accaduto niente di tutto questo. Il ministro questo non è vero, avvocato Ichino. Non è vero perché Le ripeto, molti dipendenti pubblici hanno lavorato in smart working, per quello che mi consta, sì, soprattutto nelle regioni, e hanno lavorato, credo che ce l'abbia detto qui anche Bonaccini, ma mi consta nella regione Lazio, sicuramente anche in altre regioni, e hanno lavorato con grande efficacia fino, sì, però mi sembra di capire ora. Maria, quindi, mi sembra di capire Maria, negli enti pubblici locali forse si è data dimostrazione di una certa agilità, e invece nei ministeri che non erano minimamente preparati le cose sono andate in modo diverso. Io andrei a sentire Maria, il professor Mariano Corso, anche perché mi sembra che il professor Ichino qua stia sottolineando un problema di progettazione, cioè nel momento nel quale fai partire lo smart working non è tanto una questione di singole persone, no? Nel momento nel quale fai partire lo smart working devi avere un'idea di come gestirlo, certo, e di come organizzarlo, e qua il tema è, certo, quanto le pubbliche amministrazioni siano preparate a gestire una cosa di questo genere. Professor Corso, eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, io, conoscendo il professor Ichino, ero abbastanza certo che le sue parole fossero state ampiamente travisate dalla semplificazione della stampa. Allora, credo che questo siamo momento terribili, sia noi, momento... Professor Corso, siamo terribili noi giornalisti, lo sappiamo. Sì, però davvero, prego, prego, davvero, prego. Guardi, non me ne parli. No, io credo davvero che siamo di fronte a un momento di grandissima opportunità. La pubblica amministrazione non era preparata, nessuno era preparato a un'evenienza del genere. Quello che si è fatto non è stato uno smart working, diciamo, da manuale, preparato, accompagnato, eppure i fatti ci dicono, i numeri, ecco, bisogna molto basarsi sui fatti. Io credo che facciano male, facciano danno delle affermazioni che dicono molti dipendenti. Allora, bisogna rilevare quello che è successo, riconoscere quanto è successo. Noi lo facciamo ogni giorno. Quello che ha sorpreso moltissimo è stata la continuità di servizio che si è avuta grazie a un impegno, io direi, insperato di gran parte dei lavoratori della pubblica amministrazione, e quando dico gran parte, in realtà questo può essere misurato per più del 40%, in realtà, pur non avendo, lei pensa che il 70% dei lavoratori pubblici hanno dovuto supplire alle mancanze attrezzandosi da soli, usando il loro personal computer, i loro strumenti, e hanno lavorato più ore. Questo per un senso di orgoglio che in questo momento difficile per il paese si è riusciti a ingenerare. Allora credo che su questo... La fonte, professor Corso, mi perdoni, la fonte è un'indagine, immagino, tra gli stessi dipendenti pubblici. Esatto, noi abbiamo fatto indagini su circa 5.000 dipendenti pubblici e altrettanti lavoratori del settore privato, in cui si vede sicuramente una differenza in termini di preparazione manageriale, culturale, soprattutto tecnologica, ma invece si vede nella pubblica amministrazione, nei lavoratori della pubblica amministrazione, una grande voglia, un grande senso di responsabilità. Ecco, quindi credo che titoli come quelli facciano un danno, perché bisogna costruire su questo momento proprio per risolvere quelle carenze manageriali, organizzative, tecnologiche in cui la pubblica amministrazione versa e che il professor Ichino stesso ha tante volte sottolineato. Sì, prego, prego, professor Corso, conclude, abbiamo una breve pausa, prego. Certamente, no, quello che volevo dire, bisogna partire dai dati e partire da un'evidenza. Fin tanto che non ci sarà la capacità organizzativa e manageriale di misurare le prestazioni nel mondo della pubblica amministrazione, poi in base alle prestazioni promuovere, punire, premiare, finché non ci sarà questa capacità, sarà anche molto difficile difendere i lavoratori del pubblico impiego da quelli che sono dei pregiudizi, degli stereotipi, che vanno assolutamente superati per avere un paese civile. Un'altra di quelle cose delle quali parliamo da 30 anni. Pausa. Mattino. Eccoci di nuovo, Maria, prego, vai. Eccoci. Volevo tornare al professor Ichino. Mi sembra che qui tutti siamo d'accordo sulla necessità di utilizzare lo smart working, il lavoro da remoto, nella pubblica amministrazione, oltre che nel privato. E tra l'altro mi pare che abbia dato appunto buoni risultati. Lo stesso rapporto Colao Iniziative per il Rilancio insiste molto su questa necessità di una disciplina legislativa dello smart working per tutti i settori. Questa mattina, però, e lei ne ha accennato, professor Ichino, un altro tema si pone ed è quello della cassa integrazione per tutti. Lei diceva forse sarebbe stato utile che anche i dipendenti pubblici usufruissero della cassa integrazione, questo avrebbe alleggerito il peso degli stipendi dello Stato e consentito di utilizzare quei fondi per altro. Tito Boeri, proprio oggi mi pare su Repubblica, sostiene che ogni settimana di cassa integrazione in più costa come 100.000 assunzioni di dipendenti pubblici per un anno e propone che le casse integrazioni accedano tutte allo stesso fondo, questo per non creare quelle diseguaglianze da lei evocate. Che ne pensa? Penso che sia sacrosanto entrare in quest'ordine di idee, perché la stessa ricerca che prima citava il professor Corso mostra che nel settore pubblico non tutti hanno praticato lo smart working, moltissimi impiegati pubblici non lo hanno praticato e forse proprio da quella ricerca si vede che è stata la maggioranza a non praticarlo. Del resto, che sto in un asilo nido comunale, non si vede come si possa fare il babysitting, la cura dei bambini in smart working. E noi sappiamo che ci sono moltissimi settori dell'amministrazione pubblica in cui non c'è stato, mi dispiace di non dare il dato preciso come chiede il professor Corso, però tutti sappiamo che la motorizzazione civile ha chiuso i battenti, che l'amministrazione tributaria ha ridotto del 70% la propria attività, quindi sono tutti settori dove evidentemente non c'è stato una continuazione del lavoro da remoto, ma c'è stata semplicemente una sospensione del lavoro. E allora non si vede perché quella stessa sospensione che nel settore privato dà luogo a un'integrazione salariale all'80% con il tetto di 1.200 euro al mese non debba valere anche per il settore pubblico. E perché nel settore privato il lavoratore che senza sua colpa viene lasciato a casa perché le condizioni oggettive non consentono di lavorare debba avere una riduzione di reddito e il lavoratore pubblico nelle stesse identiche condizioni non debba avere lo stesso trattamento? Ecco, questa è la cosa, la mia denuncia. Lo spunto, professore, non è male. Vorrei sentire che ne pensa il professor Corso, perché in effetti ci sono settori dell'amministrazione pubblica che in certi casi che sono letteralmente fermati. Corso. Sì, rispetto al settore privato parliamo di una componente decisamente minoritaria, anzi sono moltissimi settori della pubblica amministrazione in cui il carico di lavoro è fortemente aumentato. Però sullo spunto, sul principio, no, che si possano attivare dei meccanismi come la cassa integrazione anche per il settore pubblico. Guardi, c'è un avvocato civilista che ci segnala, professor Corso, che gli uffici giudiziari non hanno mai lavorato, per esempio, ci fa questa citazione. Guardi, si troveranno probabilmente con dei grandi arretrati da smaltire, però quello che voglio dire, non entro evidentemente soprattutto nei confronti del professor Ichino su temi di natura giuslavoristica, sulle differenze di status tra i lavoratori del pubblico impiego e quello privato, ricordo solo che per i lavoratori pubblici è stato previsto ogni volta che fosse possibile ovviamente lo smart working con l'impegno di cui abbiamo appena detto, la fruizione forzata di tutte le ferie pregresse, quindi i lavoratori del pubblico impiego in grande parte hanno dovuto consumare forzatamente quelle che erano le ferie, ma vorrei dire al professor Ichino che non sono stati affatto in vacanza in una situazione del genere. Molti sono stati spostate le attività e infine il decreto prevedeva, per quelli su cui non ci fosse nessuna possibilità di rimpiego, la sospensione dal servizio. Parlare di cassa integrazione, che è uno strumento che serve per evitare un ammortizzatore sociale, che serve per evitare i licenziamenti e per sostenere le imprese nel caso delle pubbliche amministrazioni, mi sembra alquanto improprio. Il professor Ichino ne fa un fatto di giustizia comparativa nell'andare a penalizzare questi lavoratori che non per colpa loro, perché ecco, ricordiamoci che la pubblica amministrazione è un lavoro in cui si fanno attività di natura, di servizio, quindi in massima parte, quindi nella massima parte sono attività che possono essere in qualche modo riorganizzate utilizzando nuovi strumenti. In molti casi questo non è stato fatto anche per una mancanza di preparazione. Allora dobbiamo sicuramente investire perché questo non accada più, perché abbiamo visto che un'amministrazione più digitale, più preparata managerialmente, è anche poi un elemento importantissimo di resilienza. Però voglio anche aggiungere questo. Sì, dobbiamo veramente chiudere, professor Corso. Sì, mi scusi, volevo dire, default dei servizi pubblici che avrebbero potuto esserci non ci sono stati, neanche nei settori più critici, e questo è successo grazie all'impegno di molti lavoratori e lavoratrici. Sì, sì. Grazie a Mariano Corso. Certamente. Sì, ovviamente. Grazie a Mariano Corso, grazie al professor Mariano Corso, al professor Pietro Ichino. Dibattito aperto dunque anche e resta aperto. Cara Maria, domani alle 8:20 ci risentiamo. A domani. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.